L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti come sempre con il ripasso dell'ultima settimana di notizie, settimana cominciata sabato scorso, 11 aprile, vigilia di Pasqua, e che si è conclusa ieri. Come sempre nel nostro concentrato di notizie riascolteremo i servizi, le interviste e i commenti che sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Naturalmente il terremoto rimane in primo piano, sarà in apertura e in chiusura del nostro programma. Sono di fatto giorni ormai che il sisma dell'Aquila annulla, inghiotte tante altre notizie che davvero finiscono nel dimenticatoio. Però bisogna anche aggiungere che con il passare dei giorni alcune di queste notizie riescono invece ad emergere, ad arrivare per così dire in superficie e a finire anche sulle prime pagine dei giornali, e noi le racconteremo. Sabato. All'Aquila il giorno successivo ai funerali solenni delle vittime del terremoto. Continuano ad arrivare le più importanti autorità politiche italiane come Schifani, poi Berlusconi che andrà svariate volte anche in settimana, e sabato però si finisce anche di scavare. Il bilancio ufficiale delle vittime arriva a quota 293, poi salirà ancora perché giovedì arriverà a 294 quando spunterà il nome di un altro morto a Roma in ospedale che non ce l'ha fatta evidentemente a sopravvivere alle ferite riportate nel terremoto. Intanto proseguono, anche piuttosto speditamente, le inchieste, come ci racconta questo servizio di Roberta Pellegatta. La ricerca dei dispersi si è conclusa e adesso, tra le macerie, comincia quella delle prove che certifichino la regola d'arte dei materiali e delle modalità di costruzione degli edifici crollati. Due docenti dell'Università dell'Aquila, esperti di scienze delle costruzioni, sono all'opera per stabilire eventuali violazioni delle norme e, nel caso, individuare i responsabili. Li ha chiamati Alfredo Rossini, il capo della Procura dell'Aquila, che ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Troppi, infatti, gli edifici di nuova costruzione, realizzati cioè negli ultimi 30 anni, che non hanno resistito al sisma. Troppo rovinosi i crolli dei caseggiati che hanno intrappolato e troppo spesso ucciso gli abitanti per non andare a fondo e far luce sulle cause. E, a una prima rilevazione, sembra che non siano state rispettate le norme antisismiche, ma c'è di più. Si parla di sabbia di mare usata al posto di quella di cava nell'impasto di cemento, di edifici costruiti su spaccature causate da precedenti terremoti. Se tutto questo è vero, lo diranno le indagini, partite nonostante il tribunale non sia più agibile, nonostante non ci siano i locali per custodire reperti prelevati, nonostante non sia possibile per ora porre sotto sequestro aree e fabbricati. Ma, assicurano i magistrati, i controlli riguarderanno tutte le costruzioni compromesse, a partire da quelle dove ci sono stati morti, come la casa dello studente, il condominio di via Campo di Fossa, e da quelle le cui lesioni hanno provocato scandalo, come l'ospedale San Salvatore, gioiello inaugurato nel 2000 ed evacuato dopo le prime scosse. Le mille verifiche imposte, disposte dalla Protezione Civile sugli edifici rimasti in piedi, consegnano un quadro allarmante della situazione, forse peggiore anche di quello che ci si poteva attendere. Infatti un palazzo su due è praticamente inagibile. Mentre la Procura dell'Aquila martedì lancia un allarme gravissimo su quello che sarà il lungo, faticoso, incerto processo di ricostruzione. Sentite Massimo Di Scienza. Alfredo Rossini, capo della Procura della Repubblica dell'Aquila, non ha nascosto le sue preoccupazioni. Qui arriverà un fiume di soldi per la ricostruzione, dice, molto appetibile per mafia e camorra. Un allarme già lanciato dal procuratore nazionale antimafia Grasso. Per Giuseppe Di Lello, abruzzese ed ex magistrato del pool antimafia di Falcone e Borsellino, il rischio di infiltrazione criminali negli appalti esiste. Bisogna tenere sempre presente la contiguità geografica dell'Abruzzo con la Campania, la costa già abbastanza infiltrata da queste organizzazioni, la Sacra Corona Unita ed altro. E io credo che l'Abruzzo non sia un territorio di mafie, non c'è dubbio, però è sicuramente un territorio di riciclaggio. Ma come tenere lontane le mani della mafia dagli appalti? Ancora Di Lello. Sicuramente bisognerà che ogni comune abbiano degli osservatori, cioè vengano monitorizzate non solo le imprese che vincono gli appalti, ma vengono anche monitorizzati gli appalti stessi, che tipo di appalti sono. E poi di tipo il subappalto, qui diciamo il veleno è nella coda. Il ministro degli interni Maroni ha assicurato la massima vigilanza. Intanto la politica e soprattutto il ministro dell'economia Tremonti è al lavoro per studiare più di un'ipotesi su come trovare i soldi per la ricostruzione, tenendo conto della crisi e anche di quella che possiamo definire una sorta di ragione sociale che dovrebbe avere un governo di centrodestra che di fatto ha sempre fatto dell'abbattimento delle tasse una battaglia principale, una battaglia di sostanza, non è certo cosa semplicissima trovare i soldi. Ma sentiamo come si sta ingegnando in qualche modo Tremonti e tutta la maggioranza con Andrea Viali. Una tassa per i più ricchi, un contributo obbligatorio per chi supera la soglia dei 130.000 euro di reddito all'anno. È una delle ipotesi al vaglio del governo che è alla ricerca di risorse per far fronte all'emergenza terremoto. Altra ipotesi quella di destinare ai terremotati parte del 5 per 1000. Ad avanzarla il ministro dell'economia Tremonti, che di fronte alle perplessità di molti assicura che non verranno sottratte risorse al mondo del volontariato. Non c'è ragione per lamentarsi o preoccuparsi. Sarà una causale in più e ci saranno soldi in più. Quindi ci sarà la possibilità di fare una scelta di libertà in più senza togliere niente al volontariato. Guarda invece ai lavori per la ricostruzione il presidente della Camera Fini, preoccupato per il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Laddove ci sono enormi investimenti c'è il rischio di infiltrazioni di tipo malavitoso, di tipo mafioso. Quindi è doveroso vigilare e non ho dubbi sul fatto che le istituzioni tutte sapranno essere all'altezza di un compito così importante da un punto di vista morale. Nonostante il dramma del terremoto, i morti, le case distrutte, si cerca in qualche modo di tornare alla normalità. Anche una scuola che, seppur faticosamente, riapre i battenti può essere davvero un segnale. Ce lo spiega Vincenzo Miglietta in questa cronaca della giornata di giovedì. A 10 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio L'Aquila e la sua provincia, riapre, seppur sotto tre tende, la prima scuola. La frazione è quella di Poggio Picenze, 30 i bambini coinvolti. Presenti il presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro dell'istruzione Gelmini. Nessuno perderà l'anno scolastico, aggiunge il ministro. La scuola rappresenta un servizio fondamentale, adesso anche una funzione sociale, quasi conviviale, di aggregazione. Il capitolo ricostruzione e i relativi fondi procederemo in tempi molto stretti, dice ancora il presidente del Consiglio. Chi vuole ricostruire la propria casa avrà il sostegno dello Stato, che potrà arrivare, aggiunge il premier, ad una cifra del 33%. Non c'è ancora nessuna decisione sulla cosiddetta tassa sui ricchi e sul possibile ricorso al 5 per 1000. Una precisazione: non deve togliere agli altri, come ad esempio alle Onlus, dice Berlusconi. La visita del Santo Padre all'Aquila, infine, la data è ancora da confermare, ma Benedetto XVI dovrebbe essere in Abruzzo il 1 maggio. In questo nostro primo spazio dedicato al terremoto non possiamo dimenticare gli sfollati che in questi giorni, al di là del disagio già gravissimo di non avere più una casa, quindi di dormire fuori all'aperto, devono anche combattere il freddo e il maltempo. Dall'Aquila sentiamo questo servizio di Vanni Truppi, andato in onda martedì mattina. Stufe elettriche, coperte, piumoni, si difendono così i terremotati dal maltempo che sta colpendo l'Abruzzo e complica, come se non bastasse, una situazione già difficile. Pioggia, vento forte e temperature in calo, di sera attorno ai 5 gradi mettono ancora a dura prova gli abruzzesi dopo il sisma della settimana scorsa e le oltre 10.000 scosse di assestamento. Il cattivo tempo rallenta anche le operazioni dei soccorritori, come sottolinea Titti Postiglione, funzionario della Protezione Civile. Gli ostacoli sono legati per esempio al freddo, che interessano tante delle frazioni più alte nella zona dell'Aquilano e quindi dove è importante dare la possibilità alla gente di avere ambienti che siano riscaldati. Già oggi però si prevede un miglioramento. Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno anche fatto una prima verifica degli edifici colpiti dal terremoto. Si tratta di una stima parziale su 1.000 immobili, ma i dati sono incoraggianti, come afferma la Postiglione. Il 50% degli edifici visionati è agibile. Si aggiunge un 20% circa di situazioni di edifici che con una serie di accorgimenti possono tornare agibili. Per il resto si tratta invece di edifici che hanno subito un danno più consistente. Intanto le tendopoli dell'Aquila si trasformano in mini città. Nel campo di Piazza d'Armi ci sono la posta, due chiese, un barbiere e un parco giochi. Cose minime, certo, ma che servono a ritrovare la normalità. L'ottavo giorno. Domenica. Di solito quando si parla di pirati si pensa a qualcosa di lontano, di esotico, persino se volete di letterario e romantico, si pensa a nomi e a romanzi come quelli di Salgari o Conrad. Invece in questi giorni ci troviamo a raccontare rappresaglie e rapimenti, anche purtroppo che riguardano italiani, nei mari dell'Africa. Intanto americani e francesi, anche loro colpiti dalle stesse terribili vicende, dopo giorni di impasse, di stasi per così dire, passano con decisione al contrattacco. Sentiamo la cronaca di domenica firmata da Cristina Balotelli. I pirati del Corno d'Africa hanno promesso vendetta per la morte dei loro compagni uccisi nei blitz attuati in due diversi casi da forze speciali americane americane e francesi per liberare gli ostaggi. «Noi non uccidiamo, ma d'ora in poi, in presenza di americani e francesi, qualcosa faremo», ha minacciato un pirata che dice di chiamarsi Hussein, parlando alla Reuters con un telefono satellitare. Ieri Richard Phillips, il capitano americano sequestrato giorni fa dai pirati, è stato liberato con un blitz della Marina Militare statunitense. La conferma che si è trattato di un blitz scattato dopo che le trattative si erano arenate e con l'ostaggio che rischiava di essere ucciso è arrivata in tarda serata. Tre pirati sono stati uccisi, l'autorizzazione è arrivata dallo stesso Obama e un quarto arrestato. Gli americani hanno ribadito che la loro linea in questi casi è di non negoziare. Anche i francesi hanno optato per il blitz che ha portato alla liberazione di uno yacht, ma anche alla morte di uno dei cinque ostaggi e di alcuni sequestratori. Restano nelle mani dei pirati oltre 250 ostaggi di varie nazionalità. Tra questi ci sono anche i 16 uomini della Buccaneer dell'impresa italiana Micoperi. Il rimorchiatore, a bordo del quale ci sono anche 10 italiani, è stato portato sulla costa somala, ma non si sa esattamente dove. Nessun contatto c'è stato fino ad ora con i pirati. Oltre ai mari africani di cui abbiamo appena sentito, che di solito sono lontani e soprattutto per noi sconosciuti, c'è un'altra regione del mondo che d'incanto, d'improvviso e che di solito invece ignoriamo, appare sulla cronaca nelle vicende principali di questi giorni e torna così in primo piano. Si tratta della Thailandia, dove la capitale Bangkok, a cavallo proprio dei giorni di Pasqua, finisce sotto assedio. Il racconto è di Marco Masciaga. L'immagine della Thailandia ha subito un nuovo durissimo colpo sabato, quando il governo è stato costretto ad annullare un atteso vertice dell'ASEAN per via delle proteste del movimento delle camicie rosse che si oppone all'esecutivo. I manifestanti, che hanno paralizzato Pattaya, la località balneare per dare il programma al vertice, chiedono le dimissioni del primo ministro e nuove elezioni che sarebbero quasi certe di vincere. La crisi politica thailandese risale al 2006, quando un colpo di stato militare depose il governo del primo ministro Thaksin Shinawatra. Da allora il paese è stato retto per oltre un anno dall'esercito e poi da due governi, entrambi espressione della volontà popolare, che sono stati però osteggiati con successo dal movimento delle camicie gialle, ovvero le élite urbane di Bangkok. Prevedere cosa attende nei prossimi giorni la Thailandia è difficile, ma è probabile che dopo il trionfo di Pattaya e il profondo imbarazzo in cui è stato gettato il governo, i manifestanti saranno presto di nuovo in piazza per assestare la spallata decisiva all'esecutivo. Nel giro di pochi giorni dopo gli scontri e anche i morti, torna una relativa calma a Bangkok, anche se poi ancora ieri abbiamo letto del ferimento del leader del movimento di protesta delle camicie gialle, che però non è in pericolo di vita. Sentiamo invece il quadro della situazione tracciato martedì sera da Luca Vinciguerra, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Shanghai, ma che per l'occasione si è trasferito proprio a Bangkok. La Thailandia torna finalmente alla normalità. Stamattina gli oppositori antigovernativi che ieri avevano messo a ferro e fuoco Bangkok si sono arresi alle forze dell'ordine. In poche ore le camicie rosse, fedeli all'ex primo ministro in esilio Shinawatra Thaksin, hanno sgombrato le posizioni nei pressi del Parlamento e della sede del governo, che occupavano ormai da 3 settimane. In serata, mentre la capitale thailandese tornava alla calma, un tribunale ha emesso un mandato di arresto a carico dello stesso Thaksin e di una dozzina di leader del movimento antigovernativo, accusandoli di essere i responsabili ideologici e morali dei violenti tumulti che hanno lasciato sul campo 2 morti e oltre 120 feriti. Secondo i giudici, l'ex premier, destituito da un colpo di Stato nel 2006 e poi fuggito dalla Thailandia per evitare un processo a suo carico per corruzione, sarebbe il grande burattinaio dei disordini che domenica hanno costretto il governo a cancellare il vertice ASEAN di Pattaya e che lunedì hanno incendiato la capitale. Se fosse condannato, Thaksin rischierebbe 12 anni di reclusione. Lunedì. È una giornata insolita, una giornata inedita per correre un gran premio di motociclismo, ma d'altronde siamo in Qatar, si corre di notte e addirittura c'è la pioggia, quindi tutta una serie di elementi che di solito non combaciano con un gran premio appunto di motociclismo. Tutto questo appunto invece succede in questa settimana, la gara doveva svolgersi domenica e invece per pioggia viene rinviata a lunedì. E sentiamo allora com'è andata nel servizio di Patrizio Cantù. Dopo tuoni, fulmini e tanta acqua, finalmente si è corso allo Sel in Qatar anche la prima prova della MotoGP. In una gara posticipata di 24 ore completamente all'asciutto, il copione è stato rispettato con Casey Stoner e la sua Ducati imprendibile, che ha dominato tutta la gara davanti a Valentino Rossi e la sua Yamaha, l'unico che abbia tentato di agguantare l'australiano. Rossi, un po' attardato in partenza, ha cercato di riguadagnare il suo distacco da Stoner, ma a 9 giri dalla fine, complice forse anche le sue gomme, ha desistito accontentandosi del secondo posto. Davanti al compagno di squadra, Jorge Lorenzo, buon terzo. Quarto è arrivato Colin Edwards con un'altra Yamaha e quinto Dovizioso con la prima Honda, che ha preceduto Alex De Angelis, sesto, ma sotto osservazione dei giudici di gara, dopo un contatto, una vera e propria sportellata, a Dani Pedrosa, che ha acciaccato, ha concluso all'undicesimo posto. Caduta per Loris Capirossi, che stava effettuando un'ottima corsa, ma è poi scivolato lasciando al compagno Vermeulen l'onore di portare un Suzuki al settimo posto. Adesso finalmente si tornerà a correre sotto il sole, di giorno, in Giappone, dove anche se piove si possono usare almeno le gomme da bagnato. Continuiamo a parlare di motori e di altre stranezze, questa volta riguardano la Formula 1. Quest'anno è una stagione un po' pazza, ci sono già stati due Gran Premi con due vittorie di Button con la Brown, il nome è quello di una vecchia volpe peraltro del mondiale di Formula 1, Ross Brown, grande protagonista ai tempi delle vittorie di Schumacher in Ferrari, ora è passato diciamo dalla parte del nemico, si è messo in proprio e approfittando delle regole del campionato, delle imposte dalla FIA, si è inventato dei diffusori nella parte posteriore dell'automobile che la fanno andare più veloce. Ci sono state polemiche, ci sono stati ricorsi. Giovedì arriva la sentenza della Corte d'Appello della Formula 1. Da Parigi il servizio di Igor Fiatti. Capitolo chiuso, con buona pace dei cosiddetti top team. Per la Corte d'Appello della Federazione Internazionale dell'Auto, i diffusori montati da Brown GP, Toyota e Williams sono pienamente conformi al regolamento. È stato così respinto il ricorso presentato da Ferrari, Red Bull, BMW e Renault. E questa sentenza ora costringerà i big, Ferrari inclusa, a intraprendere una corsa contro il tempo per colmare il gap coi rivali. Tuttavia, per colmare questo gap servono sia tempo che denaro. A dirlo è stato Stefano Domenicali, direttore della gestione sportiva di Maranello. Ma stando a Norbert Hoeg, numero uno di Mercedes, non si può fare in 9 settimane quello che gli altri fanno in 9 mesi. In altre parole, il vantaggio di Brown GP, Toyota e Williams non può essere annullato in tempi brevi. Visto che stiamo parlando di sport, parliamo anche di calcio, perché se ne è giocato parecchio in questa settimana. Cominciamo il nostro racconto da sabato scorso, quando scende in campo la Serie A. È tradizione anticipare a sabato il campionato, quando la domenica è giorno di Pasqua, anche se forse molti più duri avrebbe voluto vedere rinviato il campionato in segno di lutto per il terremoto dell'Abruzzo, cosa che invece ha fatto la Serie B, che non ha giocato la sua giornata di venerdì scorso, che peraltro coincideva con il giorno dei funerali solenni delle vittime del terremoto. Oggi si gioca il derby d'Italia, Juventus-Inter, si gioca a Torino, ma visti i risultati di 7 giorni fa, è forse solo accademia, forse il campionato è ormai già finito. Sentiamo perché con Giovanni Capuano. Non è stato un sabato banale, la Juventus battuta dal Genoa ha perso l'ennesima occasione per avvicinarsi all'Inter, bloccata per la quinta volta a San Siro, per la terza volta rimontata dal 2-0. A Marassi gol e polemiche, nel primo tempo Rocchi sbaglia tutto, concede l'1-0 di Thiago Motta a gioco fermo, regala Del Piero il rigore del pareggio, poi ancora Motta firma il 2-1. Nella ripresa spettacolo ed emozioni, espulso Camoranesi, la Juve pareggia con Iaquinta all'85. Incassa il 3-2 di Palladino 2 minuti più tardi, l'Inter resta 10 punti avanti. Alle spalle delle duellanti, detto che il Genoa resta quarto, avanza deciso il Milan, a Verona seconda vittoria consecutiva, terza per la Fiorentina che resta agganciata, al contrario della Roma, il derby lascia i giallorossi a 8 punti dalla zona Champions. Dietro ride solo il Torino, dopo 4 KO batte il Catania, scavalca Lecce e Bologna, superate in casa da Samp e Siena in rotta prolungata, i pugliesi hanno raccolto 2 punti nelle ultime 7 gare, gli emiliani sono la 4ª sconfitta consecutiva. Oggi regina Udinese, vale soprattutto per i calabresi, all'ultima chiamata salvezza. A proposito dell'Udinese, che è stato citato nel servizio che avete appena ascoltato da Giovanni Capuano, la squadra friulana vince il suo incontro di campionato con la regina 2-0, mentre giovedì non riesce nell'impresa di passare il turno in Coppa UEFA. Da Udine la cronaca di Andrea Saule. Anche la Coppa UEFA ha il suo Chelsea-Liverpool, peccato che la parte nera stocchi all'ultima italiana rimasta nelle Coppe Europee, l'Udinese, che esce a testa alta dalla competizione pareggiando in casa 3-3 contro il Werder Brema. L'andata era finita 3-1 per i tedeschi. Subito avanti con un bel destro da fuori area di Himmler, i friulani non si sono scomposti neppure al pareggio del Werder, firmato dal solito Diego al 27esimo. Nel giro di 10 minuti la squadra di Marino è riuscita addirittura a ribaltare il punteggio dell'andata con una straordinaria doppietta di Quagliarella. Al riposo sul 3-1, l'Udinese ha però commesso l'errore di rifiatare gara inizio ripresa, lasciando l'iniziativa allo scatenato Diego che, desideroso di mettersi in mostra nel paese in cui probabilmente giocherà l'anno prossimo, ha segnato su un'azione da gol non gol e dopo un palo colpito dall'Udinese con Asamoah si è pure permesso il lusso di sbagliare un rigore. A un quarto d'ora dalla fine il 3-3 con il gol di Pizarro che spegne ogni speranza bianconera con lo stadio Friuli in lacrime per la terza volta nella sua storia europea dopo le rocambolesche eliminazioni con Ajax nel 97 e Barcellona nel 2005. Notti magiche finite male, come questa dove l'Italia perde l'ultima sua squadra nelle coppe ma scopre un altro Diego. Una volta la Serie A era il campionato più bello del mondo, oggi forse è il più stressato e il più stressante del mondo. Anche sabato si sono viste scene davvero incresciose, soprattutto ripensando anche al terremoto in Abruzzo. Abbiamo visto risse tra giocatori con pesanti squalifiche che sono fortunatamente scattate per l'occasione. Meglio comunque rifarsi gli occhi guardando martedì e mercoledì cosa succede in Champions League, dove non ci sono italiane, ma dove ci sono soprattutto tante, forse troppe squadre inglesi, che tra l'altro in questi giorni hanno anche ricordato i 20 anni della terribile tragedia dei Sheffield, una sorta di Eisel in Inghilterra, con 96 morti e centinaia di feriti, tutto per vedere una semplice partita di Coppa inglese. Sentiamo invece il resoconto della settimana di Champions League con Dario Ricci. Un bolide di Cristiano Ronaldo che regala al Manchester United il via libera contro il Porto. I gol di Walcott, Adebayor e il rigore di Van Persie che firmano il 3-0 con cui l'Arsenal liquida il Villarreal e si prepara alla semifinale con i Red Devils. E la sera prima il pirotecnico 4-4 tra Chelsea qualificato e Liverpool e il Barcellona di Messi che passeggia col Bayern Monaco. La Champions senza italiane regala emozioni e spettacolo. Nel frattempo il pallone italico registra nell'ordine l'ennesimo capitolo della telenovela Adriano, gli appelli alle maxi squalifiche per le risse del sabato di Pasqua, polemiche arbitrali e qualcuno che da Torino prova a raccontare la favola di una corsa a scudetto ancora aperta. Insomma, si naviga a vista in acque paludose. Tranquilli però, presto il grande calcio tornerà finalmente in Italia. Basta aspettare il 27 maggio, quella sera sarà finale di Champions League, a Roma. Noi al massimo in tribuna o col telecomando in mano, inglesi o catalani a regalare spettacoli e a giocarsi la coppa sul campo. Italiano, almeno quello. L'ottavo giorno. Martedì. Quando il presidente degli Stati Uniti parla, soprattutto in un periodo come questo di grossa crisi, siamo tutti lì a drizzare le orecchie a sentire proprio cosa dice. Chissà però se invece questo discorso che martedì pronuncia all'Università Georgetown di Washington, Obama passerà alla storia o comunque avrà il merito di dettare la linea per l'economia americana e forse anche globale, non solo di quest'anno ma anche dei prossimi anni. Comunque insomma, dicevo, sono parole importanti, ce le ha riassunte Anna Marino. Spiragli dall'economia americana, anche se obbligo la cautela perché ci vuole ancora tempo. All these actions all have been necessary pieces of the recovery puzzle. Tutte le azioni adottate finora per fronteggiare la crisi, ha detto Barack Obama, sono pezzi dello stesso puzzle. In soli 3 mesi abbiamo risposto a una serie di sfide straordinarie, con azioni straordinarie che stanno iniziando a portare l'economia verso la ripresa. Citando la parabola della casa sulla roccia e sulla sabbia, il presidente ha evidenziato che l'economia americana va così ricostruita, bisogna usare questo momento per gettare nuove fondamenta. Obama ha precisato tuttavia che il 2009 continuerà a essere un anno difficile per l'economia americana. Si dice fondamentalmente ottimista anche il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, secondo il quale ci sono alcuni timidi segnali che indicano un rallentamento della contrazione dell'economia americana. La Fed farà la sua parte, continuerà la sua azione tesa a sbloccare i mercati e per combattere il rischio di inflazione interverrà al momento opportuno. Ma anche se il deficit di bilancio americano sarà molto ampio il prossimo anno, Bernanke assicura che le fondamenta dell'economia statunitense sono solide. Più o meno nelle stesse ore in cui Obama parla all'Università di Washington, parla anche Sergio Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat, e dice cose altrettanto importanti soprattutto per la futura alleanza con Chrysler. I dettagli con Massimo Di Scienza. L'amministratore delegato del Lingotto è pronto a sdoppiarsi tra Torino e Detroit. In una intervista ad un quotidiano canadese, Sergio Marchionne annuncia di poter condividere in un prossimo futuro la gestione di Fiat e quella di Chrysler, indipendentemente dalla carica che assumerà nel gruppo automobilistico statunitense. Marchionne sottolinea come si farà di tutto per rilanciare Chrysler, senza però iniettare capitali freschi. L'impegno della Fiat e legato ad una sola condizione, prosegue Marchionne, che venga ridotto il costo del lavoro negli stabilimenti americani e canadesi. Dunque tagli anche pesanti al personale. Se i sindacati non accetteranno, conclude Marchionne, siamo pronti a cercarci un altro partner internazionale. Parole che fanno eco alle dichiarazioni di ieri del presidente Barack Obama, che aveva parlato di scelte difficili ed impopolari per ristrutturare l'industria automobilistica americana. E proprio sulla Fiat e il possibile connubio con Chrysler, ieri sono emersi nuovi sviluppi, chissà, forse decisivi. Per esempio il New York Times ha scritto che tra Chrysler e sindacati ormai l'intesa è vicinissima, la casa di Detroit è pronta, sarebbe pronto, usiamo il condizionale, ad offrire più del 20% delle proprie azioni al sindacato come forma di pagamento per gli oltre 10 miliardi di dollari di debito accumulato nei confronti proprio dei dipendenti per i benefit sull'assicurazione sanitaria e il trattamento pensionistico. Inoltre l'amministratore delegato di Chrysler, Bob Nardelli, ha mandato una mail ai dipendenti nella quale ha scritto che il governo americano e la Fiat nomineranno un nuovo consiglio di amministrazione della Chrysler, se l'accordo naturalmente andrà in porto, e ha garantito che la maggioranza dei posti verrà assegnata a consiglieri indipendenti che dunque non fanno parte né di una né dell'altra casa automobilistica. Quello che invece risentirete adesso è un passaggio importante nel GR delle 13 di ieri dell'intervento dagli Stati Uniti in diretta di Luciano Clerico. La sintesi migliore l'ha fatta il presidente Montezemolo questa mattina, quando ha detto che bisogna lasciar lavorare Marchionne, perché per arrivare a un accordo c'è tempo fino alla fine del mese. Marchionne sta lavorando con riservo, lascia pochissime interviste, ne ha rilasciata solo una ad un giornale canadese, al Toronto Star, per dire sostanzialmente che la Fiat è interessata a concludere l'accordo e sta lavorando con la task force di Obama e con il vertice di Chrysler a certe condizioni. Una delle condizioni è che i sindacati potrebbero entrare nell'azionariato della nuova compagnia, l'altra condizione è che i consiglieri del nuovo consiglio di amministrazione siano indipendenti, ma l'amministratore delegato e il presidente saranno espressi o dal governo o dalla Fiat stessa e non da Chrysler. L'ultima novità sul fronte Fiat di oggi è una notizia tutta da verificare, pubblicata dal Wall Street Journal stamani, in cui dice che secondo la quale uno dei consiglieri della task force di Obama, un certo Steven Rattner, sarebbe coinvolto in un'inchiesta avviata dal procuratore generale di New York, Andrew Cuomo, che vuole capire se la società di cui Rattner fa parte, che si chiama Quadrangle Group, abbia o meno pagato tangenti per accedere a un fondo pensioni. Sul versante italiano invece mercoledì è il giorno ufficiale della riforma dei contratti dopo tanti anni. I sindacati però non sono tutti d'accordo, sentiamo perché in questo servizio di Vincenzo Miglietta. Contratti dopo 15 anni si cambia. Il nuovo modello siglato ieri che sostituisce quello del 93 prevede regole comuni per il settore privato e per quello pubblico. La durata dei contratti passa poi da biennale a triennale, tanto per la parte economica quanto per quella normativa. L'incremento salariale viene definito in base ad un indice di inflazione previsionale che sostituisce il tasso di inflazione programmata. L'accordo dà inoltre più spazio alla contrattazione di secondo livello, quella pattuita in azienda o nel territorio, obiettivo legare il più possibile i salari alla produttività. Di un buon accordo parla dal sindacato Bonanni CISL. È il meccanismo partecipativo che si staglia molto molto bene e che riuscirà a far dare il meglio di sé gli imprenditori e anche i lavoratori nel ricercare la migliore qualità e quantità del lavoro e dividersi il guadagno. Soddisfatti Angeletti, Will Polverini, UGL. Un'intesa da bocciare invece per la CGL, Epifani spiega perché. L'assenza di regole nella contrattazione, sia nazionale sia di secondo livello. Tanto più non si capisce in una fase di crisi come questa, dove sarebbe stato necessario non comprimere la contrattazione, ma renderla al servizio dei problemi che i lavoratori e la crisi hanno. Mercoledì. Ucciso il re del grano, è questo il titolo con il quale la maggioranza dei giornali e delle televisioni e delle radio annuncia la morte, l'omicidio, che peraltro spicca per i suoi tratti violentissimi, di Francesco Ambrosi, ex numero uno di Italgrani, e della moglie. La cronaca da Napoli è di Paolo Picone. Un tentativo di furto finito male. Resta questa la pista privilegiata dalla squadra mobile di Napoli, diretta da Vittorio Pisani, che indaga sull'omicidio di Franco Ambrosio e della moglie, trovati in una pozza di sangue nella loro villa di Discesa Gaiola, nel quartiere Posillipo a Napoli. Efferata violenza, questa è l'unica certezza per ora. Gli investigatori hanno raccolto elementi che confermano l'ipotesi secondo cui il gruppo di malviventi ha agito senza alcun piano. Hanno prima bivaccato in una dependanza poco distante dalla villa, soltanto dopo hanno forse pensato di tentare il colpo nell'abitazione che dall'esterno poteva apparire disabitata. Per introdursi hanno rotto il vetro di una finestra senza preoccuparsi di non fare rumore, hanno razziato soldi, portafogli e preziosi, lasciando vuoto un portagioie. Ambrosio, forse insospettito dai rumori e dalla camera da letto, ha raggiunto la cucina. Quando se lo sono trovato davanti, i criminali lo hanno violentemente colpito con un corpo contundente. L'anziano imprenditore è stramazzato sul pavimento senza respiro. Poco distante dal luogo della colluttazione c'era la moglie. Nelle ore antecedenti al furto si era addormentata sul divano del disimpegno dinanzi alla TV. I balordi hanno colpito anche lei con la stessa arma, tuttora introvabile. E adesso riascoltiamo un ritratto di Ambrosi curato da Maria Luisa Pezzali, che tra l'altro ricostruisce non solo la carriera di Ambrosi ma anche le sue aderenze politiche. Classe 1932, originario di San Gennariello di Ottaviano, piccolo comune dell'area vesuviana, Franco Ambrosio per tutti era il re del grano. Capace di trasformare l'azienda degli avi mugnai in una vera e propria holding con ramificazioni in tutto il mondo. Alla fine degli anni Ottanta, la Italgrani S.p.A. si avviava a diventare il quarto gruppo industriale italiano. Il successo di Ambrosio, villa Posillipo, aereo privato, motoscafo da 19 metri, amicizie importanti da Cirino Pomicino a Maradona sembrava inarrestabile. Fino a quando le inchieste giudiziarie da Mani Pulite in poi non lo travolsero. L'imprenditore vesuviano venne arrestato una prima volta su richiesta della Procura di Milano, che gli contestava il coinvolgimento nella maxi tangente Enimont. Poco dopo, nel 1994, il nuovo ordine di arresto è firmato dalla Procura di Roma, con l'accusa di truffa ai danni della CEE. Ma il colpo di grazia arriverà dalla Procura di Napoli con l'inchiesta sul fallimento della Italgrani, un crack da 1.300 miliardi delle vecchie lire. Alla sentenza di primo grado emessa il 27 giugno scorso, 9 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta, Ambrosio non si era ancora arreso. L'inchiesta sul massacro di Ambrosi e della moglie arriva prestissimo, in 24 ore, ad una svolta che sembra definitiva. Giovedì infatti scattano gli arresti dei presunti colpevoli. Troppe le tracce lasciate dopo il duplice delitto. Ancora da Napoli un servizio di Paolo Picone. La Procura di Napoli contesta Marius Vasile Axiniei, Valentin Dumitriu e Calin Petrich, i 3 rumeni destinatari di un provvedimento di fermo nell'ambito dell'inchiesta sul duplice omicidio della Gaiola, le accuse di omicidio aggravato e rapina aggravata. L'individuazione dei 3 è stata possibile grazie soprattutto agli elementi acquisiti con i sopralluoghi tecnici nella villa dei coniugi Franco e Giovanna Ambrosio, dopo il ritrovamento dei loro cadaveri, e soprattutto grazie ai cellulari rubati e al traffico telefonico generato attraverso uno di questi telefonini, attivato da Marius Axiniei con altra scheda per parlare alla madre in Romania e raccontare quanto era accaduto nella villa. Il bivacco, l'ubriacatura, la razzia e l'inaspettato incontro con i suoi datori di lavoro, la paura di essere riconosciuto e i 2 omicidi. Axiniei, dicono gli inquirenti, dopo essere stato rintracciato, ha subito manifestato la volontà di collaborare fornendo indicazioni sugli altri soggetti coinvolti nel duplice delitto. Il 22enne fino a un anno fa lavorava come giardiniere per i coniugi uccisi una volta alla settimana. In settimana c'è un altro episodio di cronaca, anche questo particolarmente violento, che viene poi sui giornali affiancato a quello di Ambrosio, anche se poi il contesto è completamente diverso. Andiamo ora a Cinisello Balsamo con Giovanni Capuano. Un uomo affabile, tranquillo, con porto d'armi e pistola nel cassetto solo perché a fare il gioielliere non si sa mai cosa può capitare. Fino a ieri mattina, quando quella pistola calibro 22 Remo Radolli l'ha scaricata tutta sul rapinatore che l'aveva aggredito selvaggiamente all'interno del suo negozio nel centro di Cinisello Balsamo. Pestato a sangue si è ribellato. Una colluttazione violenta. 3 colpi hanno raggiunto il rapinatore al collo e al torace, riducendolo in condizioni gravissime. Con lui altri 2 complici che si sono dati alla fuga. Nessun documento in tasca, ma il gioielliere ha raccontato agli investigatori di aver riconosciuto l'accento dell'est Europa. Solidali con lui i vicini. Tutti i rumeni, gira una squadra, che roba da pazzi. Ci sono tanti stranieri. Ieri sera una fiaccolata della Lega Nord ha attraversato il centro di Cinisello. Sul fatto indaga la procura di Monza, al gioielliere la solidarietà di Confcommercio. Non dimentichiamo che lui è la vittima, ma negli ultimi 3 anni, già 2 volte, vicende simili si sono concluse con la condanna per omicidio. L'ottavo giorno. Giovedì. La politica italiana è condizionata in questi giorni, non potrebbe essere diversamente, dal terremoto. I fatti salienti di questi giorni sono soprattutto due. Da un lato c'è il balletto di proposte, richieste, minacce, persino e compromessi finali sulla data del referendum sulla legge elettorale, se sia il caso o meno di accorparlo alle elezioni europee del 7 giugno per risparmiare del denaro, eventualmente poi da stornare sulla ricostruzione dell'Abruzzo. E poi l'altro aspetto fondamentale della settimana è la saga di Santoro e di Anno Zero, che finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone, dopo la puntata di giovedì scorso proprio dedicata al terremoto. Cominciamo però dalla vicenda del referendum, perché sfuma l'ipotesi dell'election day e quindi di un risparmio appunto nei costi delle votazioni. Il servizio da Roma è di Elisabetta Fiorito. La Lega la spunta sul no all'election day. Non ci sarà l'accorpamento tra europee e referendum sulla legge elettorale, ma solo sul ballottaggio alle amministrative. L'accordo è per il 21 giugno, non il 7, come chiedevano l'opposizione e i comitati referendari. Ma il Popolo della Libertà è aperta anche al 14 giugno, data improbabile perché non farebbe risparmiare soldi da destinare all'Abruzzo. Roberto Calderoli della Lega spiega che non è una vittoria del Carroccio. La proposta del governo della maggioranza è quella della domenica del 21 di giugno. Il ministro degli interni è stato incaricato di una consultazione di tutte le forze di maggioranza e di opposizione, perché in materia elettorale ci vuole un largo consenso. Le critiche non si fanno attendere. Per il presidente della Camera Gianfranco Fini sarebbe un peccato se per la paura di pochi il governo rinunciasse a tenere il referendum il 7 giugno. Mentre il presidente del comitato referendario Giovanni Guzzetta lancia un appello al premier Silvio Berlusconi. Non dilapidi quella credibilità che ha acquistato in questi giorni e quindi non venda agli italiani una bufala. Questa storia della data del referendum non è assolutamente indolore per la maggioranza, infatti emergono delle divisioni, delle polemiche interne. Sicuramente l'immagine di Berlusconi e della Lega non escono rafforzate agli occhi degli italiani, vista appunto la tragedia dell'Abruzzo e forse anche la necessità di una solidarietà nazionale. Tanto che poi giovedì, nel bel mezzo di una nuova visita all'Aquila, il premier è costretto a tornare sull'argomento. Il servizio di Paolo Piacenza. Sulla data del referendum si fanno polemiche inutili. Silvio Berlusconi risponde a chi ha criticato il no all'election day deciso dalla maggioranza e parla, senza mezzi termini, di un rischio crisi da evitare. Mi spiace che invece altri interpretano come una debolezza del Presidente del Consiglio e del Popolo della Libertà quella di aver ceduto a una precisa richiesta di un partito della maggioranza che, ove non accolta, avrebbe fatto cadere il governo. Più tardi il premier precisa che le sue parole sono una risposta non a Fini ma all'opposizione. E l'opposizione reagisce. Per Fassino Berlusconi ha ammesso di aver subito un ricatto politico. Per Di Pietro il no all'election day è un doppio furto di denaro e politico. Il leader referendario Guzzetta rifiuta l'ipotesi di un rinvio della consultazione al 2010. La maggioranza, con l'eccezione di Pisano, difende la decisione presa mercoledì. Quanto alla Lega, Giancarlo Giorgetti ripete che la separazione di elezioni e referendum era indispensabile per rispetto della Costituzione. E sul rischio crisi nicchia. Io non ho mai sentito parlare di far cadere il governo, che certamente se Berlusconi non si dimostrava disponibile come si è dimostrato nei confronti di Bossi ne avremmo anche parlato, però io francamente non ho mai sentito parlare di questa ipotesi. Una data ufficiale per il referendum non c'è ancora, resta in piedi l'ipotesi del 21 giugno, oppure si parla già addirittura di uno slittamento, di un rinvio all'anno prossimo. E veniamo a Santoro e alla sua situazione. Infatti mercoledì arriva una punizione esemplare del nuovo direttore generale della RAI, Mauro Masi, che sospende Vauro dopo le polemiche sulle sue vignette di cui aveva raccontato e aveva fatto vedere le immagini giovedì scorso nella puntata di Anno Zero dedicata proprio al terremoto, in particolare la più disturbante, diciamo così, delle sue vignette, che riecheggiava il piano casa e prevedeva un macabro aumento delle cubature, però in questo caso dei cimiteri. In più, secondo quello che chiede Mauro Masi, Santoro deve fare una puntata riparatrice, deve riequilibrare l'informazione proprio sul terremoto. E giovedì, puntuale, Santoro fa la sua puntata riparatrice, naturalmente la fa a modo suo e tra l'altro con un trionfo di ascolti, perché arriva a quasi 5 milioni e 800 1.000 telespettatori, batte persino Maria De Filippi, anche se poi era una puntata non certo originale del suo programma di Amici. Sentiamo Raffaella Calandra. Tornerà Vauro, Berlusconi vincerà e tutti vivremo felici e contenti. Come in un provocatorio gioco delle parti, Michele Santoro apre la puntata riparatrice citando Emilio Fede. Senza Anno Zero, dice, Berlusconi non vincerebbe. Ma Anno Zero avverte una cosa indissolubile con Vauro. Così, anche se sospeso per la contestata vignetta sul terremoto, il suo spirito aleggia nella puntata. Santoro contesta il giornale, altre volte pro satira, Travaglio in calza con un'antologia di stampa e 15 vignette, con la via crucis del precario, danno voce al grande assente. Non mettiamo in dubbio l'impegno della protezione civile, assicura Santoro, ringraziato come gli altri media da Bertolaso con una lettera. È la prevenzione che serve, ammonisce Titti Postiglione, capo della sala operativa. Ma dopo 24 ore di polemiche e sit-in, è l'assenza di Vauro a catalizzare l'attenzione e per lui Sabina Guzzanti in toga propone una condanna. Se Vauro non lo capisce da solo, che va contro il suo interesse se continua a non farsi gli affaracci suoi, bisogna che lo fa capire qualcun altro. Se questo qualcun altro lo vogliamo chiamare servizio pubblico, e chiamiamolo servizio pubblico. Ho concluso. Venerdì. E adesso apriamo un'altra breve finestra sul terremoto con il quale abbiamo aperto la nostra puntata dell'ottavo giorno. Ieri è stata un'altra giornata densa di notizie. Intanto abbiamo appreso dall'Europa che arriveranno anche da lì, da Bruxelles, fondi per la ricostruzione per l'Abruzzo, la cifra è di circa 500 milioni di euro. Poi aiuti arriveranno anche dagli ammortizzatori sociali. Si tratta di 55 milioni, ha fatto sapere il Ministero del Welfare, e il ministro competente Sacconi ha anche garantito un'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 euro al mese. E sempre ieri è arrivato anche l'elenco ufficiale dei comuni terremotati, sono 50, c'è naturalmente L'Aquila in testa, poi tanti comuni della provincia, ma anche 5 della provincia di Teramo e 7 in provincia di Pescara. Poi c'è il versante delle indagini che prosegue su un binario tutto suo. Il procuratore dell'Aquila, Alfredo Rossini, non esclude anche di poter procedere per dolo, eppure finora nessun costruttore è stato convocato. Però il fascicolo degli inquirenti si ingrossa, le denunce dei cittadini sono numerose e poi all'interno c'è anche un dossier del 2005 della Protezione Civile che conteneva addirittura i palazzi a rischio. Ieri nel GR delle 19 è andata in onda un'intervista proprio a Rossini firmata da Raffaella Calandra, sentiamone un estratto. Un sito che stiamo approfondendo molto, e perché vorrei arrivare con più rapidità degli altri a dei risultati, diciamo così, processuali, è il sito dove erano alloggiati quegli studenti che ha avuto quella sorte che lei sa. E ovviamente voi ascolterete anche i costruttori. Non sappiamo bene in che veste, tutto qui. Se come teste o come indagati? Lei l'ha detto, il fatto che è crollato il nostro palazzo di giustizia, quindi lavoriamo così come dei nomadi, passando da un presidio all'altro. Direi che noi stiamo lavorando, e questo è un fattore che si è rivelato importante anche per una certa rasserneramento. Per concludere abbiamo l'ottava notizia della settimana, con la quale peraltro ci infiliamo in un terreno molto scivoloso e dividente nel nostro paese. Sto parlando del terrorismo, perché martedì il Tribunale di Sorveglianza di Roma concede gli arresti domiciliari per il contributo dato alle indagini a Cinzia Banelli, già condannata a 12 anni per l'omicidio di Massimo D'Antona e ad altri 10 e 4 mesi per l'assassinio di Marco Biagi. Su questa decisione, che indubbiamente fa discutere, sentiamo il commento di Daniele Biacchessi. Cinzia Banelli è l'unica collaboratrice di giustizia delle nuove Brigate Rosse. Le sue rivelazioni sono state determinanti per giungere all'individuazione e all'arresto dei militanti del gruppo toscano e laziale, responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi. Già in passato, i pentiti avevano reso possibile lo sfaldamento delle maggiori organizzazioni della lotta armata di sinistra, insieme al fenomeno più ampio della dissociazione. Sul finire degli anni 70, Patrizio Pesci e Marco Barbone delinearono al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa la geografia dei gruppi del terrorismo, gli appartamenti dove i latitanti si nascondevano, gli arsenali di armi utilizzati. Così, anni dopo la grande stagione dei pentimenti negli anni di piombo, magistrati e giudici hanno applicato le leggi premiali, che comportano una sostanziale riduzione della pena per chi collabora con la giustizia ed alcuni benefici come gli arresti domiciliari. Sono leggi certamente discutibili per i familiari delle vittime e per le persone ferite, perché ai loro occhi tutto questo appare come una grande sconfitta. Ma siamo certi che lo Stato avrebbe invece sconfitto il terrorismo politico in Italia senza l'ausilio di militanti che avessero svelato particolari, anche i più segreti, all'interno di queste organizzazioni? Abbiamo terminato anche per oggi con l'Ottavo Giorno. Ottavo Giorno at radio24.it per chi vuole scriverci e parlare con noi via mail. Ricordo in regia e ringrazio Valerio Rocchetti e do appuntamento alla settimana prossima, come sempre sabato alle 10 oppure in replica alle 23.